Se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. Sono il signor Wolf. Risolvo problemi. Ah, bene, ne abbiamo uno. Buonasera. Dottore, è un duro interrogatorio. Ma no, è stato un interrogatorio molto, molto tranquillo. Ho risposto a tutte le domande e ho chiarito la mia posizione. Lei sapeva di questa polizza assicurativa di cura ereditaria? No, assolutamente no. L'ho appreso questa sera. Sono sconvolto. Perché crede che Romeo abbia organizzato una cosa del genere? Non ho idea, poi ci sono le indagini in corso, non posso assolutamente parlarne. Ma quali sono state le contestazioni che le hanno fatte? Su questo ci sono le indagini. Si sente gradita da Romeo? Beh, c'è molto lavoro da fare per Roma e dobbiamo portarlo avanti. Grazie. Grazie. Senta, ha avuto una telefonata con Grillo? Assolutamente, arrivederci. Grazie. Aggiornare la lista polizza vita a mia insaputa. Succede, Virginia Raggi è intestataria di una polizza vita da 30.000 euro fatta da Salvatore Romeo a beneficio del sindaco quando erano in campagna elettorale. Poi, quando è diventato sindaco, Virginia Raggi ha chiamato Salvatore Romeo a capo della sua segreteria con lo stipendio che è triplicato. Circo equestre. Cosa? Vincenzo, presidente, contieniti, lo so che sul Movimento 5 Stelle ti scateni, sono cose, lo so che vuoi condurre 24 mattino, tanti vogliono condurre 24 mattino, finché sono qui cerco di dare il meglio, però caro Vincenzino, non ho capito niente. No, nel senso, voglio dire, devi, se conduci, mantenere un certo equilibrio. Capisco che tu al 5 Stelle guardi con occhio un po' deboluccia. In questo momento sì, effettivamente Virginia Raggi è in una posizione un po' in bilico, deboluccia. Missili termonucleari. Questa della polizza vita è un po' un missile termonucleare, effettivamente, come aprono tutti i giornali. Comunque, a sua insaputa, non ne sapevo nulla, sono sconvolto. Bombe atomiche. Tra l'altro, c'è anche una questione, come dire, parla la ex fidanzata di Romeo, dice: anche a me intesta una polizza vita da 10.000 euro, e com'è possibile che io valga meno da fidanzata del sindaco? Alla fine io sono arrivato a una conclusione in questo venerdì che i due cardini del mondo sono sempre quelli. Due. Il primo, i soldi. Il secondo, apriamo il Parlamento. Allora, ragazzi, se uno esce per prendere un caffè e gli state sopra così, io vi voglio bene, ma... Forza, gente. Dai, Milan, che è quasi finita! In che senso? Allora, intanto voglio salutare Carla Rocchi. Buongiorno, presidente nazionale dell'Ente Nazionale Protezione Animali. Buongiorno, caro. Eccoci qua. Abbiamo salvato i lupi? Penso di sì, che ci siamo vicini. Ma adesso vediamo, perché vabbè, adesso la vedremo questa cosa, la vedremo questa cosa. Intanto voglio salutare anche cittadina di Roma, cittadina di Roma. Ecco, le abbiamo messo attenti al lupo, così mi darebbe scappare. La lupa di Roma, c'è tutto un legame. La lupa, esatto. Saluto anche Vincino. Eccoci. Cittadino di Roma, pro tempore. Pro tempore. Pro tempore, ma cittadino in realtà di Palermo e Mondello. Ragazzi, qui bisogna parlare della notizia del giorno. Che... Vincino, io sono un po' tremo un po' nel darti la parola. No, cioè là, però è forte, lei. 8 ore di interrogatorio ed esce tutta tranquilla così. Serenissima, no? Infatti. Serenissima, cioè, io sarei uscito con pezzi di Alessandro Milan affidati ai giornali, cioè affamato, sì. Ci vuole una bella tempra, no, per fare. Sì, pensa Vincino quando è uscito da 3 ore di interrogatorio dei carabinieri. Ma 3 ore? Io il massimo che ho fatto è... No, aspetta, l'interrogatorio lungo il massimo è un quarto d'ora, mezz'ora. Quando ti hanno preso a pugni? Quando mi sono preso a pugni è durato un'oretta. Un'oretta. Quello è un'ora. Pugni, sì. Come va un'ora? Non era un interrogatorio, era proprio un... Come dire, una resa dei conti. Un allenamento. Un'esercitazione di palestra, sì. Un'esercitazione al punging ball. Al punging ball, Vabbè, dai, lascia perdere. Non buttarti in questi termini che non capisci. Assolutamente. Allora, comunque. Va bene, allora, Vincino, allora, rassetta un po' le idee, perché poi mi devi dire qualcosa su questa polizza vita a sua insaputa. No. Aspetta, Carla Rocchi. Allora. Io non capisco l'utilità, perché una polizza vita, lo dice la parola stessa, dovrebbe essere esigibile quando uno muore. Stomo non era così centenario, a meno che uno non pensi a un riscatto della polizza, ma mi sembra una complicazione tale. Se uno vuole dare qualcosa a qualcuno, glielo dà. C'è sto giro che tutte polizze... Pare però che lo facesse con... racconta il giornale, l'ha fatto anche con altre persone, con l'ex fidanzata, 10.000 euro peraltro, quindi un terzo del sindaco. Ma quando sarebbe stata riscuotibile? Ma che cavolo ne so io, adesso mica c'ho la polizza davanti. Sì. È misterioso. Anche una cifra miserrima, cioè rispetto alla prima Repubblica, la modestia di tutto questo. Ah, perché alla prima Repubblica che... giravano polizze vita così. No, Repubblica girava la qualunque, mazzettoni, robe, eccetera. Adesso una cosa di 30.000 euro, una cosa di una quale che ne fosse l'utilizzazione, il tempo dell'utilizzazione, una modestia assoluta. Cosa vuol dire su 5 stelle? Non è che... Scusa, se uno deve comprare un ministro o un sottosegretario, milioni, come un 5 stelle appena arrivato, scusami, 10.000, 20.000, bastano. E sarà pure. Viene via poco, ragazzi, stiamo facendo delle accuse gravissime. Ma Vincino, no, per carità. Però. Tutti possono voler comprare qualcuno, scusami. Ma perché sei sicuro che voglia comprare, che volesse comprare qualcuno? Ma poi dopo, come dire, gli è andata bene. In che senso? È stato nominato, cos'altro? È stato nominato. Di stipendio. Sì. No, poi dopo è stato beccato e quindi è ritornato indietro. Però un momento di gloria l'ha avuto. Vabbè. Obiettivamente. Ho capito, Vincino. È il tuo momento. Anche il tuo momento. No, stai vivendo il tuo momento. Il tuo momento così. No, io lo so che tu hai pensato. Non posso credere che sia vero oggi di essere qui a dire quello che voglio sul 5 Stelle. Cioè, ti sembra una sceneggiatura anche. Un assist troppo. Devo dire che volevo parlare più di politica, ma insomma vabbè. Vabbè, ma oggi la politica è anche questa. Adesso parliamo del PD, parliamo di Renzi, fa un colloquio con il Corriere della Sera. Vuoi sapere cosa dice il Corriere della Sera, Renzi? Ma l'ha visto pure al TG1, no? Sì, al TG1, ma oggi al Corriere della Sera dice di più, pare che dica. Anzi, pare che dica. Dove cavolo è il Corriere della Sera tutte le volte? Vabbè, comunque dice che forse non vuole neanche più fare il premier. Cioè sì, è un disastro. Cioè, io in qualsiasi certezza ti crolla ogni secondo. Come? I nostri silenzi sono eloquenti. Cioè, no, vabbè, ho capito. Cioè, mettete in dubbio le parole. No, le noi tacciamo, non mettiamo in dubbio né tacciamo. Senti che dice che non vuole più fare il premier. Eh? Sì. Vabbè, ieri comunque al TG1 una coscienza di sé, insomma, dei suoi limiti, è un buon elemento. Siete sono sconvolti, contento per lui. Lo so, no, sono contento per lui. Finalmente ha capito che non è bravo a fare quello. Vabbè, ho capito che fa. Il sindaco di Roma potrebbe fare. Alla Fiat sarebbe bravissimo. Alla Fiat. A vendere macchine in America, meraviglioso, guarda. Nella nuova America lui perfetto. Sei un disgraziato. Intanto sentitelo al TG1 ieri. Ci è stato chiesto di fare le primarie, il congresso, il referendum tra gli iscritti, va bene tutto. Qualsiasi sia lo strumento per fare del nostro partito davvero un partito democratico. Però è importante che poi comunque vadano le primarie o il congresso, chi perde il giorno dopo rispetti chi ha vinto, perché altrimenti è l'anarchia. Ah, io sono anarchico, ma infatti lì ci sguazza Vincino. Ma lui poi ripete la stessa stupidaggine il giorno dopo alla mezzanotte e vai. Ma perché? Non lo so. Cioè, a me mi piace quando insomma, finite le elezioni cominciano le riunioni dei partiti per. No, sì, là. Ti piace quel balletto insopportabile da primissima Repubblica. Adesso ce l'hai con questa legge elettorale, li vedrai tutti lì a fare accordini, accordicchi, nessuno che vincerà, un disastro. Ho fondato un nuovo partito. In disastro, cioè? SVM, senza vincolo di mandato. Senza vincolo di mandato. Io per me per fondare un partito ci vorrei un foglio di carta, una penna e via. Un attimo e lo fondo. Esatto. Tutti i deputati che ognuno pensa e ragiona da testa sua. Su ogni provvedimento, ogni giorno si fa un convincimento. Senza nessun caporione di partito. Non dirlo ad alta voce che ti danno uno strapuntino. Danno uno strapuntino anche a te. No, vabbè, magari. Carla Rocchi non ha capito. Non crede a questa cosa di Renzi che oggi sul Corriere della Sera dice: non è detto che io debba fare il premier nel 2018. Posso anche non fare. Penso che non sia detto, può essere un fatto che lui pensi ragionevolmente e credibilmente di dire che non vorrebbe farlo. Lo so, penso che non ci creda nessuno, che un Renzi che dice io ragionevolmente faccio un passo indietro, ditemi voi. Non so. Sì, è una cosa che anch'io quando l'ho letta sono rimasto un po' stupito. Forse ha questa nuova linea politica dell'insabbiamento, no? Cerca di, come dire, di abbassare. Non credo che le persone possano modificare così radicalmente la loro indole. Renzi è come vi ricordate quelle cose che quei giochini per cui si apriva una scatola e usciva a molla un personaggio? Lui è incomprimibile nelle sue vocazioni, incomprimibile. Quindi che lui volontariamente possa dire faccio un passo indietro è una roba che non ci crede. Però io ho difficoltà, diciamo, ho difficoltà. Non ci credo. Allora, lui ha preso una tramvata ancora che non ha capito ancora perché. Ha detto così: il 4 dicembre, sempre in questo colloquio, avevo un rigore e l'ho calciato malissimo, un rigore. Non aveva un rigore, anche là non aveva un rigore. Adesso stiamo a vedere, questo è quello che ha detto, ma che mi frega? Ha preso una tramvata che ancora non ha capito niente, questo è il punto. Però ha capito di non aver capito niente e ha capito che, come dire, quando nel confronto con D'Alema stravince D'Alema, e questo è grave, bisogna dire. Effettivamente ha fatto resuscitare politicamente D'Alema. E D'Alema sta avendo un momento di simpatia totale, cioè, sono tutti sorridono, cioè, sembra strano, il mondo alla rovescia, parla D'Alema, tutti ridono, tutti sono di buon umore. Fa le battute, è un mondo strano. Vogliamo ricordarlo, D'Alema, vogliamo ricordarlo, andiamo a rispolverarlo, caro Lorenzo Nespoli, prima del 4 dicembre, prima del referendum, quando Massimo D'Alema ha fatto tutta la campagna elettorale per il no, poi ha vinto, ma prima del referendum che cosa diceva Massimo D'Alema? Diceva: una volta che ci sarà il referendum andrò e tornerò, o meglio, al mio lavoro. Questo è un altro mantra che lo dicono tutti. Tutti tornano da qualche parte. Sì. Non si sa. Però vedete, io voglio farvi questa domanda secca prima di andare al traffico. Ma la Raggi, giusto per tornare alla Raggi, sì. Deve dimettersi o no? a sto punto. Devono farla fuori loro, là, quelli là della Casaleggio. Noi abbiamo fiducia nella Casaleggio associati. Noi chi? Cioè, che sì, parli per plurale maiestatis? Cittadini romani, il contratto, l'assicurazione è un altro contratto, una cosa, siamo garantiti da questi contratti e via. E via. Devo notare una cosa, sì. La politica italiana, le assicurazioni tornano sempre. Vi ricordate l'Unipol? Quando l'Unipol fece crollare una direzione, una segreteria del PD, quello che si chiamava all'epoca, no? Sì. Passino, D'Alema, cosa? Abbiamo una banca. Abbiamo una banca. Le assicurazioni, le generali che governano la politica italiana da sempre, no? Come dire, è un incubo che ci sovrasta. Io questa volta però è una piccola polizza vita, piccola polizza vita. Non è piccola, come dire, c'è, importante, è importante. È un seme, è qualcosa che crescerà. Vabbè, questo è. Insomma, La Raggi ha detto che lei allo stesso momento ha detto sono serena e sono sconvolta. Avete sentito le dichiarazioni? Sono serena. Dice, ma lei ha avuto questa notizia, sono sconvolta. No, sono due cose diverse. Sono serena per l'interrogatorio e sono sconvolta per la notizia della polizza vita. Ecco, questo sono due. Erano due domande diverse. Poi è bellissima adesso, ma ha detto, ma si dimette, c'è molto da fare. No, gli ha detto una cosa, ma di che l'hanno accusata? C'è molto da fare, molto da lavorare. Va bene, dai, andiamo al traffico e rientriamo tra un attimo. Mi scusi, dovrei andare per il traffico. Più avanti? Grazie. Breda, i portoni più belli d'Italia. Sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com. Vi presenta... Ma gli animalisti che si scaldano tanto per i lupi che vanno ad uccidere le pecore, cosa fanno per salvare le pecore? Questi vi cacano in testa dividendosi le sedie e non avete le palle manche di uscire in strada. Milan, le accise sulla benzina, Milan, che innovazione, che sforzo creativo, che taglio degli sprechi, le accise sulla benzina. Ma che vergogna, che vergogna, che fantasia. Ho visto il topo là, io non ce vado. State a registrare? Sì. Perfetto, allora registrate che lì c'è un topo così, un'altra volta. Quando è venuta la radio un ragazzo ne ha contati 33. Ecco, guardi dove stanno, guardi. Sarà sicuro, ecco, due. Tre. Mamma mia, guardi, c'ho i brividi. Vogliamo capire se il quartiere è cambiato da quando c'è la Raggi. Sì, è cambiato. Che è cambiato? Con tutte le buche che ci avevamo è cambiato. Ci ha abbandonato, no? Che ha fatto? Non ha fatto niente. Dillo. Voci da Roma. Da Roma vissuta, cara Carla Rocchi. Pure coi toponi. 33 toponi. 2, 3, 4. È da un po' che non ci racconta delle storielle legate agli animali. Allora, cara Carla Rocchi, ce n'è una che ci vuole raccontare? Allora, io vi voglio raccontare più che una storiella e una considerazione. Sì. Riagganciandomi a questa storia dei lupi, no? Allora, esiste in un paese che pretende di essere normale, quale dovrebbe essere il compito di un ministro dell'ambiente? Difendere l'ambiente e difendere gli animali. Ieri lo avevamo ospite, non l'ha sentito Galletti. Pregevole. No, io dico pregevole. Ho capito, avrei detto il contrario da lei. Lo so, ma capiamoci con quello. Allora, che cosa questo ministero, da quando è gestito dall'attuale ministro, tutte le volte che c'è stato un problema per gli animali, come l'ha risolto? Esempio, cinghiali, c'è un problema, le soluzioni ci sono, ma qual è la soluzione del ministero? Uccisione. Uccisione, però. Lupi, c'è un problema di lupi che poi non c'è? Qual è la soluzione? Uccisione. Veramente ieri ci ha spiegato, l'ha sentita, tutta una roba diversa, no? Anzi, ma dici, adesso c'è il bracconaggio, dice, noi volevamo fermare. Ma io dico, il decoro impedirebbe a un ministro di dire che lui prende un provvedimento perché altrimenti i bracconieri, ma scherziamo, perché con i bracconieri si fa una trattativa, cioè il bracconiere dice, adesso siccome ci pensa il ministro io non faccio più il bracconiere, ma è una roba che a dirla ci vuole coraggio, ma ci vuole proprio senso. Vabbè, però ce l'avete fatta. Ma però visto... sa perché ce la stiamo facendo? Perché la gente si è rotta le balle, ma lo vogliamo dire, ma in questo momento sta coi lupi. Possibile mai che quando c'è un problema la risoluzione è sempre l'uccisione? cioè ci fosse una volta che dice mi viene un'idea diversa, invece che l'uccisione che poi viene chiamata prelievo, eh? Prelievo. Allora adesso io vado in banca e dico al cassiere vorrei fare un prelievo, e quello si butta dietro il bancone, mi stanno uccidendo. Non è male, prova tu Vincino, prova oggi, entri in una delle filiali dei tuoi 50-55 conti in banca, non lo so, adesso tu ce l'hai sparsi, sei uno di quelli che tutte le banche, cioè, c'è un pezzetto. Per far divertire Equitalia a bloccarmi là in giro. Cos'è per far divertire Equitalia? Per divertire Equitalia a bloccarmi, no? Ad acchiapparmi, non... No, ma lo sapete con quali animali se la stanno prendendo adesso? Che non bastassero quali? Quelli normali. Il nostro Peter Bescapelli. I ghiri. Sicilia. Che t'hanno... I cormorani in Sardegna. Che hanno fatto i ghiri? Che hanno fatto i ghiri in Sicilia? I ghiri in Sicilia, Vincino, ti mangi i ghiri in Sicilia? No. Per sterminarli, perché dice che si mangiano le nocciole dei noccioleti. I cormorani, per sterminarli, perché dice che mangiano i pesci degli allevamenti. Ma poi vi dico, questo è il ministero dell'ambiente o il ministero delle soppressioni? Scusami. Vabbè, è il ministero dell'NCD che vuole. NCD, hanno una cultura. Allora scusate, avrebbe senso è come se affidassimo i tre porcellini e Ezechiele Lupo, l'infanzia abbandonata Erode. Vabbè, adesso aspetta che deve dire la sua. Che c'hai contro NCD? Lei diceva bene una cosa, è la stessa, dice, per bloccare il bracconaggio li faccio ammazzare legalmente, pago io i bracconieri, sì, no? Sì. E gli do la patente, perfetto, come i voucher, no? Beh. Per bloccare il coso nero faccio io. Cioè, dalla caccia ai lupi ai voucher siamo saltati. Sì. No, la stessa logica. Perché la storia è questa, cioè noi con i voucher lasciamo popolazioni, migliaia, milioni di persone nella disperazione, così per salvarli dal lavoro nero. Stavano molto meglio nel lavoro nero, scusami. Stavano nel lavoro nero. Perché lo Stato vuole le sue tasse, questa è l'unica cosa che gli importa. Avido. Sangue e tasse, bella cosa. Questa la dico a Giannino. Questa se la rivende Giannino. Sangue e tasse. Cioè Vincino liberista. O meno, Vincino anarchico sempre. Sempre contro lo Stato, assolutamente. È per gli animali tutti, per loro, cioè che loro si contendono gli animali tra di loro. Ah, a proposito di sempre contro lo Stato, guarda che ho trovato una notizia. Beh, Vincino è stato anche in lotta continua, possiamo dirlo, sì. Certo, ho trovato una notizia che riguarda lotta continua. Oggi c'è Ovidio Bonpressi che è tornato a processo. Questa volta Ovidio Bonpressi, sapete, è stato accusato, è stato condannato per l'uccisione di Calabresi, e per aver dato un pugno in una rissa al vicino di casa. 20 giorni di prognosi, gli ha spaccato il naso, questa è l'accusa. A 70 anni peraltro, ma che si fa a 70 anni? Con l'età si peggiora, non è che... ho capito. Cioè, meno tolleranti uno diventa, guarda, io vedo vecchietti intorno a me che si incazzano per un non nulla, e io pure ogni tanto, non è che... È vero, questo è vero, con l'età si peggiora. È un dato di fatto. Una tragedia. Ma li senti più gli amici di Lotta Continua? No, siamo tutti qua, tutti da Lotta Continua, poi c'è il Foglio uguale, tutti là dentro. Praticamente è un covo di Lotta Continua. Assolutamente sì, insomma. E lo rivendi. Adeno Sofrico, tutti lì, come dire. Tutti lì. Vabbè, sono quelle amicizie che non si interrompono. Ma anche Carla Rocchi era vicino, no? No, Carla Rocchi, Lotta Continua. No, io a quell'epoca, veramente, sembra strano dirlo così, ma facevo altro. È stato io attraversato periodi molto molto importanti della storia nazionale, però facevo sempre altro, no? Non so perché. Come vi siete conosciuti? Vincino, adesso che ci state raccontando? Conosciuti? Ma Vincino, che sei matto? Ci siamo conosciuti. Carla Rocchi prende le distanze. Carla Rocchi, prende le distanze. Guarda che se devi svelare Altarini, non è molto simpatico. Non sono Altarini, assolutamente. Sicuramente ci saremmo conosciuti. Confondo con l'epoca di Rutelli, forse. Sì, è vero, confermo. Che più cosa, invece Lotta Continua è un po' più indietro nel tempo. Lotta Continua è arrivata prima. Però di per dire, alcuni degli assessori di Rutelli erano di Lotta Continua. Senti, ma ci vuoi raccontare in conclusione, Vincino, una delle tue esperienze in carcere? Dai, una che non ci hai raccontato. Ci hai detto che hai giocato a carte, hai imparato a fare cose, un qualcosa così. Il pranzo di Pasqua, quando nelle celle vicine organizzarono e prendere una cella dove c'era un ex della banda Giuliano, assassino, organizzarono un pranzo di Pasqua pazzesco con tanti intingoli, cose, una cosa. Ti ricordo, lo porti ancora nel cuore questo pranzo di Pasqua, sì. C'era anche l'uovo di cioccolata. No, l'uovo di cioccolata non c'era, non arrivava. Che poi voglio dire, hai detto dei personaggi che se a uno non piaceva tanto il sugo che era acido, non è che glielo diceva proprio, dice questo sugo, no, ma ti è venuto male. Devo dire una cosa, il clima di violenza non c'era. No, però uno non è che va a contestare la qualità del sugo. Ma era buono. Gli odori meravigliosi, assolutamente. Noi eravamo studenti invitati in questo... No, chiarissimo. Allora dai. Banda Giuliano... Sì, va bene, tutti degli stinchi di santo. Allora, visto che abbiamo un minuto, vogliamo chiudere. Ieri l'abbiamo avuto anche ospite, Roberto Giachetti in persona. Gli abbiamo comunicato che noi abbiamo il premio alla Giachetti. Avete la faccia come il culo. Allora, il premio Giachetti, vincino a chi lo dedica questa settimana? E qua siamo due, i sempre personaggi così. Di oggi sono due, cioè? Sono Raggi e Renzi, tutti e due con la R. È il giorno della Carla Rocchi. Io lo dedico al ministro Galletti. Va, figurarsi. Non poteva essere diversamente. Non poteva essere diversamente. Invece di dedicarla a un lupo, poteva dedicarla a un lupo. No, il lupo è una bella bestiola, lasciarlo stare, creatura. Sì. Però le pecore che sbrana il lupo, che facciamo? Ma guardate che le pecore... Vi dico un'ultima cosa. Sì. Ma io dico, una persona che voleva sterminare i cinghiali e il lupo ogni tanto aggredisce il cinghiale, ma che fa? Ammazza il lupo? Ecco, questo è il punto vero. Ma mai una soluzione, mai sempre un problema. Sempre. Comunque, mano al fucile. Comunque, ferma nella mia designazione. Sì, va bene, il premio Giachetti è assegnato. Vi ringrazio, vi auguro un buon weekend, ci sentiamo prossimamente. È venerdì! Urliamolo tutti insieme, Milan! È venerdì! È arrivato Milanalino. Legge, commenta, spoglia, combattute piccanti. È arrivato Alino Milan, l'arrotino della comunicazione. 24 mattino. Ci siamo, dai Peter, eccoci qua, dai che è venerdì, lo sai anche te, eh? Mamma mia, per fortuna che è San Venerdì! San Venerdì, attenzione! È il venerdì in cui si chiude la 196esima settimana decisiva per l'abolizione delle province, nonché la settima decisiva per la riforma elettorale. Non è successo nulla questa settimana, ma confidiamo nella prossima, 197esima e ottava. Forza, forza amici politici, dai che ce la fate. Allora, intanto andiamo a leggere i giornali. Non c'è niente di più divertente che commentare i giornali, ragazzi. Siamo arrivati a venerdì 3 febbraio con alcuni titoli. Intanto, le notizie principali sono per il Sole 24 Ore: Padoan, il ministro dell'economia, che risponde all'Europa. La correzione dello 0,2% prima del DEF, questo è il titolo di prima pagina del Sole, e così il giorno il governo cede al diktat dell'Unione Europea. Poi la vicenda che riguarda il sindaco di Roma, Virginia Raggi. Interrogata a lungo, spunta questa polizza vita a suo nome. Corriere della Sera, Raggi, il caso della polizza. Così Repubblica, nuove accuse, Raggi in bilico. Per il Fatto Quotidiano, Raggi, il mistero della polizza. Il Messaggero, una polizza in guai alla Raggi, fino ad arrivare al Giornale che in maniera molto secca titola «Una polizza vita uccide la Raggi». Vedremo altre aperture, c'è Avvenire per esempio sull'accordo Italia-Libia stop agli irregolari, questa è un'altra notizia che trova spazio sui giornali anche per il Manifesto e l'apertura «Muro di Malta». Il tema, vale a dire, quello dell'immigrazione. Ma voglio partire dall'approfondimento di alcune notizie, a cominciare da quella di Vasto. Ce ne siamo occupati anche ieri e vi annuncio tra l'altro che il procuratore capo di Vasto sarà nostro ospite alle 8:20. Il tema è quello della giustizia fai da te, perché come sapete un ragazzo di 22 anni, Fabio Di Lello, è stato ucciso dal marito di Roberta Smargiassi. Roberta Smargiassi a sua volta era stata uccisa in un incidente stradale da Fabio Di Lello. E allora tutto il paese si interroga. Intanto sui social, io l'avevo detto, gli eroi da tastiera hanno già decretato che ha fatto bene, la giustizia fai da te.